Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Donna Vincenza era sola nella profondità del suo animo. Ma non era sola nel suo regno di via Sproni, nella casa che Don Sebastiano aveva costruito e abbandonato alle sue cure. La famiglia cresceva e assumeva quella forma che avrebbe mantenuto nei secoli, anche quando il male interno ne avrebbe minato l'esistenza e l'avrebbe materialmente dissolta, come avviene di tutte le cose di questo mondo. Ma la famiglia, questo mistero in cui la nostra persona si moltiplica, non vince, ma accresce la solitudine. Donna Vincenza non era sola perché intorno a lei gravitavano altre vite sole che formavano la sua piccola corte. La modesta casa nella quale aveva vissuto prima che Don Sebastiano la portasse nel rione di Santa Maria era circondata da ancora più modesti abituri, dove svolgevano la loro vita povere donne che si guadagnavano il pane con antiche opere artigiane, facevano dolci su comando, tessevano la tela o macinavano il grano. Zia Isporzedda, che abbiamo incontrato in quel mio fantastico ritorno al cimitero, aveva appunto la mola e Parlamento, l'asino dagli occhi bendati, girava intorno da 500 anni prima che Don Pasqualino lo fermasse col suo mulino a vapore. Tutta questa gente guardava con rispetto, o meglio con amore, alla figlia di Monsuvulier, quel piemontese morto d'un colpo della quale sentivano la grazia. E quando Don Sebastiano se la volle in sposa e la fece nobile, le si strinsero intorno come a una figlia o a una sorella a cui si apra un radioso destino. E col passare degli anni non la dimenticarono, anzi, per la mutata condizione, si sentivano tributari di essa e andavano a trovarla nell'immensa casa e le portavano i loro piccoli doni. Zia Isporzedda soprattutto, che sedendo per terra con le mani sulle ginocchia accanto all'asino, aveva imparato a meditare, capiva, sebbene non capisse niente, quel che c'era dietro la ricchezza di Donna Vincenza e le prestava quando poteva i suoi servizi e nell'aiutarla a sbucciare i piselli o le fave le raccontava quel che c'era di nuovo a Sabena, così che Donna Vincenza era sempre al corrente della storia pur vivendo in clausura. Anche i poveri possono fare ai ricchi la loro carità. Don Sebastiano non degnava nemmeno di uno sguardo questi poveri fedeli di sua moglie quando li incontrava nel grande atrio della sua casa ed essi si ritraevano intimiditi lungo la parete imbiancata di calce col grande zoccolo di nero fumo come era segno delle dimore dei ricchi. Chi invece salutava gravemente senza però fermarsi era la zia Gonaria, la cugina povera di Donna Vincenza che ogni giorno nell'andare e nel tornare a scuola entrava col suo sorriso a salutarla. Gonaria, una sanna anche lei, ma che non aveva nulla a che fare con Don Sebastiano, era zia, perché così la chiamavano i figli, e specialmente il più piccolo che essa aveva tenuto a battesimo, e raccontava che il bambino aveva teso la mano per toccare la fiamma della candela che ella reggeva. Non era vero, si capisce, ma essa lo aveva certamente visto, perché viveva innamoratamente nel sogno. Il sogno non era solo il bambino che tendeva dalle fasce come un nuovo Ercole la manina verso la fiamma. Era quella fiamma nella quale lo spirito si incarnava come nell'ostia ed ella lo vedeva. Vedeva in una suprema allucinazione quel suo figlioccio stringere tra le ditine lo spirito senza bruciarsi. L'aveva raccontato tante volte nella sua vita e tanto più ora che il figlioccio si faceva grande e già la superava di almeno una spalla, perché zia Gonaria era piccolissima di statura e ancora più piccola sarebbe sembrata se non avesse avuto un corpo perfetto sotto gli abiti neri e un viso angelico sotto il grande fazzoletto bianco che le stringeva la testa come una benda. Donna Vincenza aspettava la visita della cugina non senza un certo malizioso affetto, perché c'era tra loro una misteriosa complementarità. Gonaria sapeva tutto di Dio, non sapeva nulla della vita. Vergine per assoluta vocazione, come le tre sorelle con le quali viveva in una casa salvata da antichi disastri, la cui memoria costituiva l'orgoglio della loro solitudine, ella entrava con gioia nella dimora di questa cugina, che aveva dato alla gloria del Signore tante creature. Ritrovava e quasi trasferiva in lei quel bisogno di maternità che ogni donna reca con sé e che nell'opera quotidiana si esercitava nelle sue alunne, poiché ella era maestra e tutte le generazioni delle ragazze nuoresi erano passate sotto di lei. Madri e figlie e persino nonne si erano avvicendate da 30 anni sui banchi di quella scuola, dove chi poteva imparava a scrivere, ma tutte uscivano innamorate di Dio. Donna Vincenza sapeva tutto della vita e il suo divertimento era quello di opporla al Dio della cugina, il quale, non essendo altro che amore, resisteva a tutte le ironie, che poi erano bonarie, perché anche Donna Vincenza aveva bisogno di Dio e per questo voleva bene alla sua strana parente. Comunque, le innocenti contese finivano in una tazza di caffè, la sola cosa di cui Gonaria fosse ghiotta. Gonaria, la zia Gonaria, era una santa. Si capisce che il suo nome non figura nel calendario. Non si può diventare santi senza un'organizzazione. Perciò la sua anima vagola sempre nel cimitero di Nuoro, come le anime dei peccatori, confusa con essi. Là mi è venuta incontro, mi ha stretto le ginocchia, come io da bambino stringevo le sue. Mi ha chiesto disperatamente la carità. Quel cupo Dio che aveva messo a vivere nella terra di Nuoro don Pasqualino e Predischedda, don Sebastiano e Boelle e Bartolino e gli altri 100 che abbiamo incontrati e che incontreremo, in un momento di gioia aveva costruito con le sue mani la zia Gonaria. Certamente l'aveva creata perché l'adorasse, e a lei infatti si era fin da bambina mostrato sotto forma di una lucciola che era entrata nella stanza buia, sotto forma di un agnellino appena nato che il pastore portava per i piedi col cordone ombelicale ancora attaccato, sotto forma di un uovo deposto nel pagliaio o sotto forma del sole e delle stelle infinite che brillano nel cielo. La casa dove Dio l'aveva fatta nascere era grande e ricca, ma in pochi anni divenne piccola e povera. Suo padre, la solita storia, vedendo i continentali accatastare danari col taglio delle foreste, aveva creduto, sebbene fosse un laureato, di imitarli, e anche lui aveva fatto in principio fortuna. Ma una volta, si era nel mese di agosto, venne un temporale che durò 3 giorni, in una terra dove non piove mai. Le scorze che egli aveva accumulato all'aperto in attesa del compratore che doveva ritirarle marcirono tutte. Il padre girava disfatto intorno alle cataste, guardando i rivoli rossi del Tannino che scorrevano a valle. Disperato si imbarcò per Livorno, dove risiedevano i mercanti, e nessuno lo vide più. Un colpo lo aveva portato via appena arrivato. Questa almeno era la favola destinata a riempire le generazioni. La madre morì poco dopo e rimasero solo Gonaria, Battistina, Tommasina e Giuseppina, 4 sorelline, con un fratello che si chiamava Ciriaco. Quel Dio che aveva creato Gonaria per la sua gioia o per il suo gioco entrò e si adattò alla piccola casa dove avevano dovuto riparare, dove Non c'era più niente, ma c'era il braciere d'inverno sulla cui coppa ronfava il gatto dai peli bruciacchiati. E anche questo era Dio. Poca era la cena, ma la bambina aveva altrove il suo pane. E da allora, forse come per un inconscio voto, si abituò a rinunciare al cibo, aiutata in questo da continui mal di testa che erano anch'essi un segno di Dio e di cui da grande diventò un simbolo la benda bianca che le chiudeva i capelli. Ma Dio si manifestò quando fu giovinetta perché, dotata com'era di intelligenza, riuscì presto a diventare maestra ed ebbe uno stipendio di 93 lire mensili sulle quali si edificò la nuova dimora della famigliola. Gonaria non avrebbe mai toccato con le mani il danaro, perché nascosto dentro ogni soldo c'era il demonio, ed essa, come vedeva Dio, vedeva il demonio. Le 93 lire andavano a finire nelle mani di Giuseppina, la sorella che si era assunta per vocazione il ruolo di Marta, e pensava alla cucina e alle altre minime spese. Le altre due sorelle, Battistina e Tommasina, vivevano nel passato, cioè del ricordo della ricchezza perduta, come a dire che Gonaria e Giuseppina lavoravano anche per loro. Ma non c'era nulla di male in ciò, perché ciascuna seguiva in certo modo il suo destino, che tutte accettavano. Del resto erano molto diverse l'una dall'altra, perché Battistina partecipava dell'anima estatica di Gonaria, Tommasina era sanguigna e pingue e forse subiva più che seguire la vocazione del celibato che era comune a tutte. Nessuno del resto poteva sapere allora che Dio si sarebbe servito di questa donna per l'agguato che preparava alla sua creatura. Dormivano tutte nella stessa stanza perché avevano paura. La mariposa, il lumino che girava senza sosta nella coppa dell'olio, rompeva le tenebre della notte e aiutava Gonaria a non dormire perché il sonno le sembrava tempo sottratto a Dio. Dalle strade le giungevano di quando in quando le urla degli avvinazzati e più di una volta aveva riconosciuto la voce e la bestemmia del suo collega maestro Manca, braccato dalla ferocia di quei paesani che lo tenevano sotto il terrore della morte. Allora pregava per lui, anche se a scuola, al mattino, quando i fumi dell'alcol si erano attenuati, le diceva cose sconce, irridendo alla sua castità. Ma lo faceva con affetto e quasi per mettere in mostra la sua abiezione. Quando la stanchezza vinceva i rumori della strada, le giungeva dalla stanza di là dal corridoio un lieve ronfare che la riempiva di consolazione, perché era il respiro del fratello prete che dormiva saporitamente in attesa dell'alba che lo chiamasse a dir messa. Ciriaco, come si chiamava, se ricordate, era l'unico uomo in quella casa di donne che avevano un istintivo orrore dell'uomo. Che cosa poteva fare se non entrare in seminario e prendere gli ordini? Era il solo modo che aveva di vivere con le sorelle, farsi mezzo donna anche lui. Che avesse una vera vocazione è dubbio, ma in fondo ciò non aveva importanza. Quel che è certo è che Gonaria vide in questo avviarsi di un fratello, dell'unico fratello al sacerdozio, il segno della grazia. Dio era venuto di persona ad abitare nella sua casa. Guardava con occhi estatici a quelle mani che avevano il potere magico di toccare l'intoccabile, l'ostia consacrata nella quale era nascosto, ma non tanto che ella non lo vedesse, il corpo del Signore, e lo circondava di cure, ne sopportava le asprezze del carattere, ne accettava le male parole con le quali egli talvolta le corrispondeva. Ciriaco era un buon uomo, aveva fatto studi molto limitati e comprendeva poco le sorelle che vivevano quella vita falsa di monache senza abito. D'altra parte, non c'era nulla di peggio che vedersi circondato di un amore che lo trasfigurava, perché, in definitiva, ognuno vuole essere se stesso con la sua consapevole mediocrità. A lui interessava, e giustamente, che Gonaria gli facesse trovare in sacrestia un caffè latte ben caldo quando usciva dalla messa con lo stomaco vuoto dalla sera prima, cosa alla quale ella provvedeva amorosamente per mezzo di una ragazzetta, una sua piccola allieva di famiglia poverissima ma piena di intelligenza, che veniva a fare per gratitudine piccoli servizi alla sua maestra. Si chiamava Peppe Dedda, che vuol dire Giuseppina. Una casa di quattro sorelle nubili non è mai sola. Con regolare costanza venivano dal vicinato le altre vecchie nubili, vestite nel loro costume, che ad una certa ora chiudevano la loro casetta, infilando la chiave nell'ampia tasca orlata di rosso, ed entravano senza bussare nella stanza di soggiorno. Sedevano immobili nella sera che invadeva la stanza, perché si risparmiava la luce, e alla fine si riducevano a ombre, mute testimoni di inutili attese. Gonaria, che era tornata dalla scuola, era la sola che vagolasse lamentando il suo mal di testa, in cui nessuno più credeva. Il prete sedeva nell'angolo tra la credenza e la porta che dava sul terrazzo, col tricorno in capo. A volte perdeva la pazienza e gridava alla sorella santa: «Non ti puoi fermare, sembri una trottola!» Il lume arrivava quando il buio aveva annullato le ombre e di vivo non era rimasto che il riflesso della brace, se si era d'inverno. Gonaria versava nel braciere di quando in quando qualche zolletta di zucchero, perché mandava un buon odore, ma anche perché il fumo che si sprigionava poteva pensarlo come un incenso. Ogni volta era una sfuriata del prete, che ne aveva abbastanza dell'incenso in chiesa, e poi era un uomo e non ammetteva queste allucinazioni. Alla luce della lampada, le visitatrici si riscuotevano e a una se ne andavano, per la stessa ragione per la quale erano venute. Avevano consumato 2 ore della loro vita e avevano aiutato a consumarle. Domani sarebbe stato lo stesso. Esse non lo sapevano, ma anche questo era uno scambio di carità. La difficoltà più grande che io trovo in questo ritorno al passato è quella di mantenere le prospettive. E si capisce perché. Ognuno di noi, anche se si limita a guardare in se stesso, si vede nella fissità di un ritratto, non nella successione dell'esistenza. La successione è una trasformazione continua ed è impossibile cogliere e fermare gli attimi di questa trasformazione. Sotto questo profilo si può dubitare del nostro stesso esistere, o la nostra realtà è solo nella morte. La storia è un museo delle cere. Le quattro sorelle le ho fermate nella immobilità di un crepuscolo, perché tali io le vedo dopo tanti anni. Ma certo si muovevano, e anzi si agitavano, perché la loro vita solitaria non era tranquilla. La casa si era ingrandita un poco, perché ai guadagni di Gonaria si erano aggiunti quelli del prete, ma la natura reagiva diversamente in ciascuna di esse. E poi non si può vivere nel ricordo come faceva Tommasina, mentre, a parte Battistina, che era come un'ombra, le altre lavoravano. Perciò scoppiavano di quando in quando delle tempeste, che però subito si sedavano, perché il senso del passato lo ha chi si umilia nel lavoro assai più di chi se ne sta a contemplarlo nell'ozio. E poi c'era il prete, che nei momenti difficili si ritirava nella sua stanza, l'unica vera stanza della casa, che Gonaria gli aveva preparato amorosamente con un gran crocifisso circondato da campane di fiori finti. Allora mutolivano tutte o si davano l'una all'altra la colpa a bassa voce, come in un bisbiglio. Non mangiavano mai insieme, perché ciascuna andava a prendersi un mestolo di minestra che Giuseppina aveva preparato e Gonaria sbocconcellava camminando un pezzo di pane. Solo il prete sedeva a tavola con tutti i piatti davanti. Tommasina e Battistina volevano avere sempre lo stesso piatto e lo nascondevano talvolta, senza nemmeno lavarlo. Erano i segni del male che covavano e che sarebbe paurosamente scoppiato più tardi. Gonaria e Ciriaco uscivano presto al mattino, l'una per andare alla scuola, l'altro per andare alla messa. Tommasina rimproverava questo come un'evasione, né pensava che i pochi soldi che le consentivano di vivere venivano di là, perché nel suo sogno ella attingeva nei forzieri del passato le sue ricchezze. «Noi siamo ricchi, noi siamo ricchi», diceva con la sua voce robusta alle povere donne che venivano a trovare Gonaria, perché lei nessuno sarebbe andato a trovarla. Ed era anche capace di pigliare i soldi dalla ciotola nella quale venivano riposti e distribuirli ai poveri, gettando nella disperazione Giuseppina, che su quelli doveva contare per sfamare la famiglia. Vantava le sue ricchezze come esaltava la sua salute, come diceva che non Gonaria, ma lei sola, credeva in Dio, perché si circondava di immagini sante e custodiva nel comodino un pezzetto di legno della vera croce di Gesù, che un missionario le aveva portato da Gerusalemme. Il mondo ruotava intorno a lei, insomma, e col mondo ruotavano tutti, le sorelle, il fratello, le vicine, perché non bisogna svegliare, come tutti sanno, i nottambuli che camminano sull'orlo di un precipizio. Il problema è se tra queste donne e i beoni del caffè Tettamanzi ci sia un qualunque rapporto, a guardarli così, le une e gli altri, dal limite della vita cui sono arrivato. Essi hanno vissuto sotto lo stesso cielo e dormono nella stessa fossa. Questo è quello che posso dire. Ed è una cosa che li accomuna, indipendentemente da Dio o dal diavolo che si sono presi le loro anime. Il fratello prete, del resto, si manteneva estraneo a quel modo di vivere delle sorelle, anche se profittava degli agi che gli procuravano. Egli covava nel suo cuore semplice un grande sogno, ed era quello di essere fatto canonico. Per questo si teneva lontano dai suoi colleghi diseredati e frequentava la curia, acquistandosi la fiducia dei vescovi che man mano si succedevano. Un giorno il cappello si sarebbe ornato del cordone rosso e una nuova vita sarebbe cominciata nella povera casa rifatta con tanta pena. Gonaria attendeva quel giorno perché un canonico è più vicino a Dio di un semplice prete. E si confidava con Donna Vincenza, che la scherniva, ma le aveva promesso per quel giorno di farle una grande torta coi cioccolatini incastonati, perché sarebbe stata una grande festa.